Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento per questo fine settimana con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto con noi Gianluca Codognato al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora Gianluca, in questi giorni ho visto sulla cronaca nei giornali di truffe sul web di case vacanza che sono state affittate e poi quando arrivi non trovi proprio la casa. Ma in questo caso parliamo di vacanze rovinate, perché di questo si tratta, però in una forma diversa. Cos'è successo? Sì, Francesco, allora chiaramente siamo in periodo di vacanze, il nostro sportello Vacanza Informata è fissato di richieste d'aiuto per varie situazioni, per varie tipologie di problematiche. Una di quelle che hai raccontato tu adesso è anche questa, una classica, problemi con i voli aerei, eccetera, eccetera. Però, ecco, volevamo soffermarci su un altro caso, altre due situazioni in realtà che andiamo a raccontare brevemente, per spiegare anche una nuova tipologia di richiesta che si può andare appunto a formulare nei confronti del tour operator quando una vacanza è proprio rovinata. Allora, intanto Francesco, ti racconto due storielle, due storie, due vicende in realtà, sì. Due disavventure vissute da due nostri soci. Una riguarda una vacanza di incubo di una famiglia in Toscana, andata in un camping in provincia di Livorno, e un camping che già attrezzato, quindi con delle tende molto grandi. E niente, quando sono entrati nella tenda si sono ritrovate praticamente la tenda invasa da ragni, le pentole arrugginite. In una settimana hanno passato 5 giorni in questa tenda, dice, sporca e igienicamente inadatta, per poi dopo essere trasferite gli ultimi 2 giorni in un'altra tenda. E questa appunto è la disavventura vissuta da una famiglia della nostra provincia. Invece per una coppia, per una famiglia formata da 2 genitori e un figlio piccolo siciliana, l'incubo è stato vissuto invece in una nave da crociera prenotata tramite tour operator, per la quale insomma avevano previsto di avere una bella cabina col balcone e invece sono trovati in una cabina senza balcone, senza aria condizionata e con il bagno intasato. Chiaramente è stata una settimana da incubo. Ecco, per entrambe queste, diciamo, situazioni, il nostro ufficio legale andrà a chiedere una cosa un po' originale, un po' nuova, anche che deriva da una sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, quindi una recente sentenza, che parla della possibilità di farsi risarcire, al di là di farsi rimborsare il pacchetto turistico, di farsi anche risarcire per vacanza rovinata. Cioè, significa questo praticamente, che il nostro ufficio legale formula la richiesta ovviamente di rimborso di tutto quanto si è sostenuto per affrontare la vacanza, però si chiede anche un surplus, un risarcimento vero e proprio, perché la vacanza è stata rovinata, quindi c'è un danno psicofisico subito da chi dovrà partire per la vacanza per rilassarsi e invece è tornato a casa più stressato di prima. Ecco, quindi diciamo queste due vicende che sono tra l'altro succedute di recente, abbiamo potuto mettere anche in moto questa richiesta, per la quale adesso vedremo cosa ci verrà anche risposto. Ecco, mi viene però subito da farti una domanda. Ovvio che se io non sono contento della mia vacanza, devo farlo sapere subito. Sì, ma allora diciamo che queste sono tutte persone che hanno fatto la vacanza poco tempo fa, stiamo parlando di persone che l'hanno vissuta appunto una ventina di giorni fa, hanno subito contestato sia da un lato che dall'altro i disagi vissuti, e dopodiché anche in presenza di risposte un poco ancora non molto concrete hanno preferito rivolgersi a noi. Ecco, stiamo parlando di situazioni molto recenti, sono avvenute praticamente a metà luglio entrambe, per cui diciamo che proprio le persone dopo aver avuto la vacanza rovinata l'hanno subito contestata sia alle strutture e alla nave sia al tour operator, però hanno preferito anche appoggiarsi a un ufficio legale, al nostro ufficio legale, per poi formalizzare un'altra contestazione nella quale si chiede anche questo risarcimento per vacanza rovinata. Certo. Ecco, quindi vogliamo dire appunto a chi partirà, a chi è già partito e appunto ha avuto la vacanza rovinata da disservizi eccetera, che insomma c'è anche questa possibilità prevista appunto da una sentenza della Corte di Giustizia Europea, alla quale di recente si è anche allineata la giurisprudenza italiana, quindi siamo anche molto fiduciosi per le nostre richieste. Ecco, potrebbe nascere un nuovo format radio-televisivo, dopo cucine da incubo e hotel da incubo, anche vacanze da incubo, staremo a vedere. E devo dire che ne sentiamo veramente di tutti i colori, ogni estate, ma anche non solo d'estate. Va bene, va bene. Intanto, aspettando che l'Adico si metta in moto per aiutare a risolvere i numerosi casi che arrivano, ti ringrazio Gianluca, ci fermiamo per una settimana, quella di Ferragosto, e poi ci ritroveremo ancora con l'appuntamento del prossimo martedì 23 agosto. Grazie a te Gianluca e un saluto all'Adico intera. Grazie Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.